Italia in controluce. Buona mattina, oggi è il 24 marzo ed è la prima delle due edizioni di Taglio contro luce, il quotidiano di Radio 24 con taglio di magazine e di inchiesta. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchisi. Un anno fa venivano trovati nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza i resti di Elisa Claps, scomparsa nel 93 quando aveva solo 16 anni. Il reportage di Gennaro Grimolizzi da Potenza. Il cerchio si stringe sempre di più attorno a Danilo Restivo. Imputato dell'omicidio di Elisa Claps, è in carcere in Gran Bretagna con l'accusa di aver ucciso un'altra donna. Il DNA di Restivo è stato scoperto dai carabinieri del RIS sul maglioncino appartenuto ad Elisa ed indossato dalla ragazza quando fu assassinata nel settembre del 1993 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. Il cadavere di Elisa parla. Così disse il medico legale Francesco Introna, e un anno dopo il ritrovamento dei resti della ragazza potentina, la vicenda sembra avere per i magistrati della Procura di Salerno contorni sempre più precisi. La storia della giovane non conosce precedenti nella cronaca giudiziaria italiana. I suoi resti, a un anno dalla scoperta, non sono ancora a disposizione della famiglia per i funerali e non è dato sapere quando la chiesa della Santissima Trinità, tuttora sotto sequestro, potrà essere riconsegnata ai fedeli. Prima del 17 marzo di un anno fa, inquirenti e forze dell'ordine, secondo la famiglia Claps, non hanno fatto abbastanza per trovare Elisa. Depistaggi ed insabbiamenti, frutto, come ha detto qualcuno, di un sistema untuoso e gelatinoso che caratterizza certi ambienti di Potenza, hanno consentito ai responsabili della tragica fine di Elisa di farla franca per sin troppo tempo. La pensa così anche Don Marcello Cozzi, coordinatore di Libera Basilicata, associazione da anni impegnata nel denunciare ritardi e strane coperture che hanno impedito di fare subito luce sull'efferato delitto. Non è escluso che proprio il parroco antimafia celebri i funerali della giovane. La giustizia su questa storia verrà portata a compimento nel momento in cui, oltre all'autore materiale dell'omicidio, si farà luce anche sugli autori morali dell'omicidio, e vale a dire tutti coloro che in questi anni hanno coperto l'autore materiale. Questa storia è venuta fuori tutta la sua evidenza, noi l'abbiamo toccata con mano quando l'anno scorso, all'indomani del ritrovamento, quei 10.000 in strada, in piazza a Potenza, sfilavano per chiedere verità e giustizia. Non era mai accaduto in questa città organizzare un corteo del genere e poi nell'arco di 24 ore con ragazzi, che è la parte più bella, che è la cosa più bella. Noi all'epoca dicevamo, un anno fa, ma lo ribadiamo oggi, che a Potenza, in Basilicata, stiamo vivendo, nonostante tutto, stiamo vivendo una bella primavera, un bel fermento. Certo, però questa emozione va anche incanalata, va organizzata, va resa strutturale. Non è sufficiente oggi, non basta più né indignarsi dinanzi alle cose che non vanno, né emozionarsi dinanzi alle cose belle. Occorre far diventare progetto sia l'indignazione che l'emozione, perché solo in questo modo si può davvero mettere le basi per una società diversa. Don Marcello elogia il lavoro degli inquirenti della Procura di Salerno, che in questo anno non hanno lasciato nulla di intentato. I loro sforzi sono stati così premiati. Gli investigatori stanno facendo tutto il possibile e l'immaginabile per poter arrivare a capo di questa storia, per cui sui resti della povera Elisa in questo anno suppongo abbiano fatto davvero tutto ciò che si poteva fare, tutto ciò che forse andava fatto 17 anni fa, se il corpo fosse stato trovato 24 ore dopo. Ma oggi l'hanno ritrovato, per cui oggi hanno fatto tutto quello che bisognava fare. A quel punto, prima di tumulare questo povero corpo e lasciarlo finalmente in pace per sempre, si sono presi questo tempo. Ben venga il tempo che si sono presi, è vero, è stato allungato di un anno questa agonia, però se questo serve per arrivare a tutte, ripeto, tutte le responsabilità, allora ben venga, insomma. Ma cosa è cambiato nel capoluogo lucano dopo la triste scoperta nella chiesa della Santissima Trinità? A rispondere è ancora Don Marcello Cozzi. A Potenza, sicuramente è andata scemando quel quell'atmosfera anche molto tesa, nervosa dei primi tempi del ritrovamento, il che non sta a significare che qua c'è gente che nel frattempo ha dimenticato quell'emozione e ha dimenticato quello che è successo, sta a significare piuttosto il contrario, che in questo anno bocce ferme, come si dice, molte cose anche sono state chiarite e dopo un anno oggi tutta la gente bella, di Potenza, di Basilicata, che vuole sapere la verità su questa storia è ancora più rafforzata nella propria determinazione. Noi non lasceremo neanche un centimetro di questa storia se non verrà fuori tutta, ripeto, tutta la verità. La storia di Elisa non ha lasciato indifferenti gli ambienti religiosi e i fedeli. Un gruppo di cittadini di Potenza si fece promotore, all'indomani della scoperta nel sottotetto, di una raccolta di firme per sconsacrare la Santissima Trinità. Una reazione dettata più dall'emotività che dalla reale consapevolezza di poter far chiudere il luogo sacro. La Chiesa potentina, tramite il vescovo Monsignor Agostino Superbo, ha predicato sin dal primo momento cautela. Prima di prendere decisioni sul futuro della Santissima Trinità, le autorità ecclesiastiche vogliono conoscere l'esatta dinamica dei fatti. Ma le risposte si avranno solo al termine delle indagini e del processo a carico di Restivo. L'eventuale riconoscimento della profanazione, sempre che il sottotetto venga considerato parte integrante del luogo sacro, richiederà, secondo il diritto canonico, un rito riparatorio di riconciliazione. La prima edizione di Italia in Controluce, siamo raggiungibili anche su Facebook, Twitter, via mail, controluce@radio24.it. Nuove storie oggi alle 13.30 su Radio 24.